Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas, capitolo secondo, parte seconda. Libertad. Questo Libertad era davvero un personaggio, era il figlio naturale di un prefetto, un buon inizio nella vita. Vedere da lontano suo padre in grande uniforme, intento a far bei discorsi nelle cerimonie, vederlo passare dopo rasente ai muri, quando veniva in visita. Il bambino si fece presto una brutta opinione dai rappresentanti del governo. Anche al liceo di Bordeaux, il giovane Albert fu un allievo poco comodo, un disadattato sociale, si direbbe oggi. Comodo verdetto applicato dalla società a quelli che la mettono in discussione. Soffocava. Non considerava l'abate de Lille, il maggior poeta francese, nella nozione di patria, il valore supremo, rifiutava che la sua testa diventasse il ricettacolo delle idee ricevute. Si impennava sotto la disciplina napoleonica, che allora regnava ancora negli istituti pubblici. Il conformismo non era il suo forte. Insolente, cattivo soggetto, con in più quelle gambe folli che scavavano un fosso tra gli altri studenti e lui, finì per essere considerato dalla maggior parte degli insegnanti l'incarnazione del diavolo. Uno o due tentarono di insegnargli la rassegnazione. Se ne pentirono subito. Albert consigliò loro di ritornare a meditare sui vantaggi dell'educazione spartana del IV secolo a.C. Quanto a lui, ogni sua simpatia andava agli eloti. Il giorno in cui prese la via dei campi, non fu una grave perdita per la reputazione del liceo. D'altronde non fu ritrovato. Lanciando con superbo slancio le sue gambe morte in avanti, saldamente appoggiato a due bastoni, aveva preso la strada di Parigi. Circa 600 chilometri da fare zoppicando erano lunghi, eppure ne venne a capo. Come se la cavò? In modo semplice, mendicando. Nei pressi d'Angoulême, di Châteauroux, di Vierzon, di Orléans, passanti isolati videro sbucare all'improvviso da una macchia un fauno che brandiva i suoi bastoni sotto il loro naso, in modo così minaccioso che nessuno osava rifiutargli una monetina. Poi se la battevano. A Parigi il direttore di Libertaire scoprì una sera d'inverno quella povera cosa inferma e cenciosa su un banco del boulevard Rochechouart. La generosità era un sacro dovere per gli anarchici. L'uomo lo portò senza esitare al giornale, gli diede da mangiare, da bere e gli preparò un letto con tre pile di giornali. Albert fece del suo meglio per pagare l'ospitalità, incollò buste, ricopiò indirizzi, legò pacchi con lo spago, fece girare a braccia la stampatrice, scopò, preparò da mangiare. Nei suoi discorsi cominciò a ritornare una parola che era un'ossessione, un'angoscia, un'idea fissa, libertà. I suoi occhi fiammeggiavano quando la pronunciava. Un compagno spagnolo finì col soprannominarlo Libertad e Libertad egli restò per sempre. Ma una sera un imbecille, vedendolo affaccendarsi in un angolo, mormorò: «Qui sta diventando la corte dei miracoli». Libertad finse di non aver sentito, non rispose, prese le stampelle e se ne andò, come era venuto. Dove rifugiarsi non conosceva nessuno. A forza di vagare per la collina di Montmartre, finì con l'accorgersi che al Sacro Cuore, che si terminava l'ora di costruire, i preti distribuivano dei buoni per il pane. Per avere questa manna bisognava però ascoltare la messa. Brontolando vi si recò. Il predicatore era appena salito sul pulpito, aveva appena iniziato l'omelia, e un energumeno si alzò ai suoi piedi, gridando con voce vibrante nel silenzio raccolto: «Chiedo la parola». Libertad la prese e la tenne. Il prete tentò di gridare al sacrilegio. «Silenzio, impostore!» gli fu risposto. Un «oh» di spavento percorse la pia assemblea, seguito da un sordo brusio che si gonfiò in clamore. Ma la voce di Libertad coprì le proteste, tuonando un Vangelo a modo suo. In cambio di un boccone di pane ruggiva, agitando il suo tagliando, «Mi avete costretto a entrare in una chiesa. Il vostro Cristo, prima di dar da mangiare ai miserabili, poneva loro delle condizioni? Non sono d'accordo. In nome di che quell'uccello lì sul suo trampolo, e indicava il prete, dovrebbe avere solo lui diritto alla parola? E con che diritto parla di carità? Io, che sono povero, sono più vicino al vostro Cristo del Santo Padre a Roma, coi diamanti, col cappello e di voi lassù, buon pastore, che siete complice dei politicastri nello sfruttare la miseria umana. E osate parlarmi di carità cristiana? E tutti voi, con le vostre teste di cretini, venite a rifarvi una buona coscienza la domenica mattina per poter tranquillamente truffare gli impiegati durante la settimana? È così? Massa di canaglie, mucchio di buoi. Era troppo. Quelli più vicini a Libertad si erano prudentemente scostati. Il prete e due scaccini tentarono di superare lo spazio rimasto libero attorno a lui, nella speranza di immobilizzare il forsennato. Ma appoggiato al pilastro, la barba fremente, l'infermo si mise allora a fare mulinare vorticosamente i suoi bastoni. Bisognò battere in ritirata. «Indietro, Giuda!» tuonava Libertad. «Indietro, assassini di operai, indietro, schiavi, bacchettoni, mangia ufo, selvaggi, sfruttatori, vi insegnerò io la carità!» Ma un vicario, più lesto degli altri, era andato in sagrestia a prendere un grande drappo bianco. Salì sul pulpito, serrando al petto il prezioso fardello, lo dispiegò e lo lasciò cadere sul sacrilegio. In un attimo Libertad venne legato e fatto rotolare su un sudario. Sei coraggiosi si incaricarono di trasportarlo al commissariato di Rouet d'Ancourt. «Dio mio, perdonate a questo sventurato come io gli perdono», disse il prete, tornata la calma, volgendo lo sguardo verso il cielo, «perché non sa quello che fa». Libertad fu condannato a 6 mesi di prigione, come dirà Rilet, più tardi era lanciato. Appena rilasciato si era messo al lavoro, tipografo a Rouet Montmartre, un mestiere che gli piacque subito. Inoltre la gente che l'aveva assunto era della sua stessa razza, tutti del filone anarchico, rudi, indipendenti, ripiegati su se stessi coi loro riti di corporazione, le loro canzoni tradizionali, il loro linguaggio. Si era integrato senza difficoltà e aveva indossato la blusa nera della professione come un cavaliere di una volta la tunica da crociato. Si era subito installato a Montmartre, all'ombra del Sacro Cuore, forse per provocazione, al numero 22 di Rouet des Chevaliers de la Barre, già Rouet Rosier, ove si stavano ora recando Eugène Dudonné e Louis Kaiser. Henri Levadan, cronista mondano dell'Illustration, descriveva così la Rue des Chevaliers de la Barre. Termina con una doppia scalinata di scalini faticosa, munita di rampa di ferro, dalla cui sommità, lanciando grida acute, si lasciano scivolare giù i monelli. Tipica periferia fatta di immobili stretti, poveri e sporchi, senza età, senza stile, né alcunché di significativo se non la loro uniforme laidezza, fatta di terreni abbandonati, con steccati dassi mal congiunte, baracche, stamberghe con un unico pianerottolo, o case a 5 piani, là in equilibrio con finestre da ospizio o da prigione. Per Lavedan, che si avventurava raramente fino a Montmartre, la sporcizia faceva fiorire l'esotismo. Dudonné fu colpito dalla miseria del quartiere. L'alloggio di Libertad era il centro di un'agitazione febbrile. Nel sottosuolo era stata trasportata una stampatrice centenaria, rimessa in funzione. Il primo numero dell'Anarchia era stato tirato là sotto, alla meno peggio, 3 anni prima, nel 1905. Era l'epoca del processo di Alexandre Jacob, un anarchico insolente, ladro, geniale, che sarà più tardi immortalato dallo scrittore Maurice Leblanche, col nome di Arsène Lupin. Gentleman scassinatore, Jacob non pagò di essere artista della grana come Ravachol, Caserio, Henry, aveva letto una dichiarazione al processo. «Dato che non riconosco a nessuno il diritto di giudicarmi, non imploro né perdono né indulgenza, non prego quelli che odio e che disprezzo. Certo mi rendo conto che avreste preferito che mi fossi sottoposto alle vostre leggi, che operaio docile e infrollito avessi creato ricchezze in cambio di un salario irrisorio e col corpo consunto e il cervello inebetito me ne fossi andato a crepare in un angolo di strada. Allora non mi avreste chiamato cinico bandito, ma onesto operaio. Usando l'adulazione mi avreste anche dato la medaglia al lavoro. I preti promettono un paradiso alle loro vittime, voi siete meno astratti e offrite un pezzo di carta straccia». Entusiasmato, Libertad aveva subito dedicato una mezza colonna dell'Anarchia a una colletta in favore della madre di Jacob, ridotta alla miseria dall'imprigionamento del figlio. Il tono del giornale era questo. Eugene, tenendo sempre con orgoglio a braccetto Louise, che faceva voltare molti, attraversò i gruppi che stazionavano davanti alla piccola casa dalle persiane verdi. Entrò in un negozio scuro, in cui una decina di personaggi dai capelli lunghi erano impegnati in una violenta discussione sulla necessità della prostituzione. Uno di loro, un bell'uomo di cui Louise notò subito la cravatta annodata all'artista, si era lanciato in una tirata sulle prostitute sacre dell'antica Grecia. Vedendo la coppia si interruppe, poi tossicchiò con aria di importanza e propose di salire al primo piano. La seduta stava per iniziare. Tese la mano ai nuovi venuti. «Non credo che ci conosciamo», disse. «Mi chiamo André Lourlot». Diodonné si presentò la moglie e raccontò che venivano da Nancy ed erano amici di Charles Bill. Lourlot assentì con aria assorta, divorando Louise con gli occhi. Era chiaro che la fama di Charles Bill non era giunta fino a lui. Louise si vergognava un po' dell'accento lorenese di suo marito. Poi entrò come un colpo di vento Libertad, piombando su di loro come un capro imbizzarrito, seguito da due donne, le sue due donne, le sorelle Mahé. Mentre i tre uomini scambiavano qualche parola, Louise guardava affascinata la fronte calva e irregolare dell'infermo, su cui spiovevano capelli ribelli simili a spine. Libertad le trascinò nel suo vortice verso la scala e arrivarono in una grande sala chiara dalle pareti tappezzate di fiori in stile moderno, in cui erano già in attesa un centinaio di persone. Libertad prese posto dietro uno scrittoio tarlato e anche loro si pigiarono stretti uno contro l'altro. Louise tra i due uomini su sedie sbilenche e sedili di giardino recuperati, come spiegò Lourlot. Faceva un caldo soffocante, la sala rumoreggiava sordamente, Eugene se ne stava impalato, intimidito, si trovava nel Santa Sanctorum di cui Charles gli aveva tanto parlato. La composizione della riunione lo turbava, era ben diversa dalle serate intime di Nancy. Quello di Rouet du Chevalier de la Barre era un pubblico eterogeneo, la maggioranza era costituita da operai avidi di cultura politica, e che, per venirne fuori, seguivano i corsi di doposcuola dell'Associazione Politecnica. Ma c'erano anche scrittori, giornalisti, avvocati, professori, venuti a respirare l'aria della fronda. E inoltre borghesi sperduti, sbarcati da turisti e che forse si aspettavano qualche orgia. Ex forzati, due donne di mondo e come inevitabile spie che prendevano accuratamente appunti. E troneggiante su tutti, curvo sulle stampelle, dominando tutti con la statura e la voce, Libertad e le sue parole di fuoco. Un torrente di invettive dilagò improvvisamente dalla sua bocca. Contro la crescente tensione franco-prussiana, contro la colonizzazione, contro i fautori della guerra, di tutte le guerre, eccetto quella sacra, senza patria, che fa insorgere tutti i giorni in tutti i paesi gli oppressi contro gli oppressori, contro i libertari che si credono liberi dalla nascita. Mentre la libertà è un ideale, una conquista difficile e lenta, contro quei socialisti che reclamavano la giornata di 8 ore. Ma no, ci vuole la giornata di 18 ore per esasperare gli operai affinché si rivoltino. D'altronde gli operai, parliamone, tutti quelli che non producono niente di utile sono da accettare nelle fogne. Gli acciaieristi di Saint-Étienne, complici dei mercanti di cannoni, i correttori di Bibbie, complici dei curati, i fabbricanti di contatori del gas, complici dello Stato, quelli di biglietti di banca, complici del commerciante rapace, i punzonatori di biglietti del metrò, complici della bestialità generale, rimbecillente, contagiosa. Louis non aveva mai pensato che il punzonatore potesse essere un traditore della causa. Ma come dubitarne se Libertad tuonava con quell'ardore e con quella fuga? E poi l'ambiente, quelle urla di approvazione, quegli scrosci di applausi che punteggiavano il discorso le facevano girare la testa. Non si scostò quando l'orlò le scinse le spalle, col pretesto che non era in equilibrio su una mezza sedia. Si sentiva tutta fiacca. Dopo Libertad, un avvocato si mise a spiegare la sua concezione del progresso sociale a colpi di cifre e di tabelle. Ma 5 minuti dopo, una voce esile e roca, proveniente da alcune file dietro di loro, interruppe la sua foga. «Ma tacci dunque, zuccone!» E l'uditorio spedì lo sventurato oratore all'aria dei lampioni. Un secondo poi, un terzo, non ebbero maggior successo. La stessa vocina, dallo spiccato accento parigino, piombava sul loro primo giro di frase, simile alla mannaia di una ghigliottina. «Vattene, zuccone!» La sala sussultava di risate. «Vattene tu, Sudì!» qualcuno gridò, ma il giovane Sudì, era lui che interrompeva, se ne stava impassibile, come turbato dal suo successo, allora all'apice del tumulto. L'orlò si alzò maestosamente, chiese il silenzio e lo ottenne. Il suo discorso fu l'apoteosi della serata. «La vita è un atto assolutamente egoista», proclamò, «e l'essere vivente è in lotta contro tutto l'universo, in cui conserva il suo posto solo a prezzo di trionfi incessanti. Egli è nemico di tutto ciò che non è lui. Lo ha detto uno scienziato, un biologo, Ledantec. Quanto a me, sono per l'anarchismo scientifico. Rifiuto l'irrazionale dei sentimenti ereditati dai nostri antenati, i selvaggi». Dalla sinistra della sala partirono dei fischi. Ci fu un inizio di rissa. L'orlò fece fronte eroicamente. Libertad, ruggendo come una belva, separò gli arrabbiati a colpi di gruccia e la seduta fu tolta. Da allora, ogni volta che Louise rivedeva l'orlò, gli riservava gli sguardi che aveva avuto per Eugene a Nancy. Tutti i lunedì sera a Rue des Chevaliers de la Barre e tutti i mercoledì a Rue d'Angoulême, lei, che prima diceva con una smorfia imbronciata che tutte quelle chiacchiere d'uomini l'annoiavano, seguiva allegramente suo marito alle conversazioni popolari organizzate da Libertad. Era sicura di incontrarlo, ne era abbagliata. Eugene in confronto sembrava un concentrato di idiozie, un bruto, senza raffinatezze. Le occasioni di dargli degli appuntamenti non mancavano. Con tutte le sommosse, le manifestazioni, le conferenze da organizzare. Si trovarono spesso nei bistrò, la sera, ai 4 angoli di Parigi. Eugene si rendeva conto che la moglie era cambiata. Si mostrava aggressiva nei suoi confronti, gli rivolgeva critiche pungenti, lo amava meno, ma non vedeva in questo alcun rapporto con l'orlò. Non ci pensava nemmeno. L'orlò gli piaceva molto, lo riteneva buon oratore, divertente, conosceva tanta gente a Parigi e aveva sempre una storia da raccontare. E poi era un compagno, dunque un essere sacro. Una giovane meno ingenua, meno provinciale di Louise, avrebbe scoperto in poco tempo il lato folcloristico del personaggio, avrebbe sorriso alle sue teorie invece di considerarlo un semidio, e le ragioni di prenderlo in giro non le sarebbero mancate. L'orlò, il cui vero nome era André Rouleau, aveva fatto nel 1904 un'entrata strepitosa negli ambienti anarchici, improvvisandosi maestro di pensiero di una colonia a Saint-Germain. Colonia È così che gli individualisti chiamavano un'associazione di compagni che decidono di vivere insieme, tenendo tutto in comune. Idee, denaro, donne. D'estate a Saint-Germain, mentre gli altri coloni sudavano sotto un sole di piombo accanendosi a coltivare il terreno e a tracciarvi soldi, l'Orlò passava le sue giornate a leggere, tutto nudo, in cima agli alberi per essere più vicino al sole. «Lavorate», diceva a chi gli rimproverava l'ozio. Voi siete il braccio, mentre io sono la mente, io penso». Da quelle meditazioni scientifico-naturaliste dovevano nascere diverse teorie geniali. Un giorno il pensatore ebbe una rivelazione, nel suo nido. La comunicò immediatamente agli ignari del pian terreno. «Siete tutti degli imbecilli», affermò, con gravità. Volete un miglioramento sociale, aumenti di salari, diminuzione delle ore di lavoro. Tutto questo perché avete troppi bisogni. Diminuite i vostri bisogni e non avrete più voglia di fare la rivoluzione. Per questo un solo mezzo, la banana. È un frutto ricco di calorie, chimicamente sostituisce il pane, la carne e i legumi. Una banana al giorno per tutti e non ci saranno più scioperi, più sfruttati, più sindacati. Per un mese l'Orlò si era nutrito di sole banane. Poi, stancatosene, aveva scoperto un'altra panacea ai mali del pianeta, l'olio di balena. Era di un'evidenza lampante. La grossezza del cetaceo era tale da garantire che l'olio, racchiuso nei suoi fianchi, possedeva virtù miracolose. Prova supplementare. Le sardine, i tonni, gli sgombri si conservavano a tempo indefinito grazie all'olio. Lì era la salvezza, lì il progresso della felicità e dell'immortalità, e l'innovatore, per dare il buon esempio, reclamava un bicchiere d'olio ben fresco nei caffè che frequentava. Anche se Louise avesse saputo tutto questo, non vi avrebbe trovato nulla di ridicolo. La maggior parte degli anarchici che frequentava proferivano con la maggiore disinvoltura teorie altrettanto incredibili. Libri letti troppo in fretta avevano provocato danni irreparabili in cervelli non sempre preparati alle speculazioni metafisiche, sociologiche o scientifiche. Essi condivano Proudhon, Nietzsche, Taine, Renan, Le Dantec con salse imprevedibili, ma quando non si ha alcun punto di riferimento, come si fa a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso? Il buon senso proteggeva Eugene da questi eccessi. Una sola cosa lo irritava un po', la risata squillante di Louise e i suoi occhi turbati quando il loro nuovo amico faceva cadere il discorso sull'amore. E questo avveniva sempre più spesso. Naturalmente, nella sostanza, l'Orlò aveva ragione. Il matrimonio era un'istituzione borghese, arcaica, sorpassata. Esseri liberati, anarchici, coscienti, devono praticare il libero amore. Tutti i vizi sono permessi nella misura in cui sono affermazioni dell'io. Il solo che conta, il solo che è scientifico, è il piacere sessuale, e Libertad stesso serviva di esempio, avendo due donne contemporaneamente. Ma quando affermava che era criminale tenersi una donna solo per sé per tutta la vita, chiamarla mia moglie, come si dice, il mio cappello o il mio cane, Eugene lo trovava eccessivo. Non si vedeva a mettere Louise in comune coi compagni, come secondo l'Orlò esigeva la legge scientifica. Ma fu quel che accadde, dietro le sue spalle, a beneficio esclusivo dell'anarchico scientifico. Eugene lavorava dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Terminati i lavori di casa e le compere, le giornate erano lunghe per Louise, che male avrebbe fatto uscendo a passeggiare di tanto in tanto e che ci sarebbe stato di male se per caso si fosse imbattuta in l'Orlò? Il male cominciò veramente quando, dopo numerosi incontri clandestini, in cui le parlava della rivoluzione sessuale, tenendole la mano, l'Orlò la condusse in un albergo a ore per illustrare, a modo suo, la propaganda coi fatti. La dimostrazione fu più che sufficiente perché Louise fosse disposta a ricominciare. Questo durò due mesi, fino a quel giorno dell'autunno 1908 in cui il dramma esplose. Quel giorno Libertad partecipava come molti altri, a una manifestazione a Montmartre. Quando la polizia intervenne, la faccenda degenerò ben presto in uno scontro terribile. L'infermo, in prima fila, aveva adottato la sua tattica abituale. Appoggiato sul torso, faceva volteggiare le stampelle attorno a sé colpendo nel mucchio. Colpiva a destra e a sinistra, ruggente, sulla testa, il ventre, i pugni, le gambe, picchiava, menava colpi con tutte le sue forze. Ma il servizio d'ordine era troppo numeroso e Libertad si trovò accerchiato. Furiosi per i colpi che avevano ricevuto, i poliziotti lo afferrarono per le gambe e lo trascinarono sanguinante mentre urlava e cercava ancora di colpire sui gradini di una scala della collina. Libertad morì il giorno stesso all'ospedale per le ferite. Ebbe il tempo di lasciare alla scienza il suo corpo, la sua carogna, perché servisse al progresso della medicina. Lasciava dei figli che aveva sempre rifiutato di riconoscere. Lo stato civile, non so cosa sia il nome, me ne frego, si daranno quello che piacerà loro di più. La legge vada al diavolo. La sua scomparsa creò un vuoto negli ambienti anarchici parigini. Passato il primo stupore, fu necessario pensare a trovargli un sostituto al giornale. Due gruppi si affrontarono. I sentimentali, da una parte, che ritenevano la sensibilità un fattore essenziale nella personalità umana, e dall'altro gli scientifici, con l'Orlò come portavoce. La disputa si risolse a colpi di Browning. Una notte a Montmartre ci furono 3 morti. La spuntarono gli scientifici, come era in fondo logico. L'Orlò si ritrovò dunque alla testa dell'organizzazione creata da Libertad. Cercò subito di convincere Louise che il dovere la chiamava al suo fianco. L'avvenire dell'umanità era in gioco. Questo argomento non la lasciò indifferente. Accettò di lasciare Eugene e di mettere a disposizione la propria vita. Eugene restò pietrificato. Non poteva avercela né con Louise né con l'Orlò. Ciascuno era libero della propria scelta, non è vero? A che servirebbe avere dei principi se non per applicarli nelle grandi occasioni? Ma nessun ragionamento poteva impedirgli di sentirsi infelice come un cane. I nuovi amanti sgombrarono ben presto da Montmartre per installarsi a Romainville, nella grande casa bianca al fondo del giardino, dove li raggiunsero a poco quelli che erano destinati a formare la banda. Caroni, Garnier, Raymond Lascienza, Vallée, Monnier, detto Simentov, Sudi. Eugene gironzolò a lungo dalla Rue de Faubourg Saint-Antoine a Montmartre e da Belleville a Romainville. Dopo che la moglie era diventata un personaggio di primo piano, aveva acquistato una certa popolarità. Conosceva tutti e tutti lo rispettavano, soprattutto per il suo modo di osservare scrupolosamente i doveri di aiuto reciproco e di ospitalità. Lavorava ancora, ma non ci metteva più passione. Louise era chiamata la Venere Rossa, era diventata una militante di punta che teneva discorsi stupendi ispirati dal suo liberatore sessuale. Eugene si infliggeva per orgoglio il tormento di vederli tutti e due parlare davanti a lui, perché nessuno potesse vantarsi di averlo sorpreso in flagrante delitto di gelosia, un sentimento vergognoso per uno scientifico. Soprattutto trattandosi di sua moglie, davanti alla coppia mostrava buon umore, faceva l'indifferente, l'emancipato. La sua natura profonda l'avrebbe spinto a piantare un coltello nel ventre del rivale. Doveva ricorrere a tutta la sua forza per dominare gli istinti. Al di là di questa idea fissa, più niente lo interessava davvero. Il 6 giugno 1911, convinto che Louise non sarebbe mai più tornata da lui, mise nella valigetta l'unico abito, quello del matrimonio, e decise di tornare a Nancy, a piedi, perché non aveva più una lira. 3 giorni più tardi, a Meru de l'Oise, rubò la bicicletta di un tal Chandesin. Era la prima volta che praticava la riappropriazione individuale da solo. Non gli fece paura né piacere. Niente aveva più importanza. Arrivato in città, corse dalla madre. Ma cosa raccontare a quella brava donna che non le desse dolore? Per fortuna non ricevette troppe domande. Louise non c'era. tutto era chiaro e l'aspetto abbattuto del figlio era eloquente a sufficienza. Poi si recò a trovare Charles, che gli consigliò di rimettersi a fare il falegname. In quei casi, secondo lui, nulla era peggio della pigrizia. Eugene fece dunque qualche lavoro, mal pagato, presso il fratello minore di Charles, Emile Bill, che aveva messo su bottega. In seguito, per un incontro casuale, andò a lavorare per un po' di tempo alla Glaville, nella Meurthe et Moselle, lì o altrove. Il 26 novembre 1911, quando conosce il lionese Jules Bonneau, Dieudonné è tornato per qualche giorno a Parigi, in un ultimo e vano tentativo di riconquistare la moglie. Non sa che questo incontro è una trappola del destino. Libri ribelli. Libri ribelli.